giorno si vede dal martirio. Forse per questo il patriottismo è un delirio. Ma nonostante il mio ego non sia forte, anche quello del popolo non vuol fare a botte. Il gioco è bello quando dura poco, ma i miei compagni emigrano lasciando luogo. Con me nell'oculo della mia città, sentirsi paralitici col culo appeso alla mediocrità. Neanche l'arte ormai significa niente, è solamente un modo per stimolare la gente. Ma se la gente ha perso ogni valore, che arte ci sarà mai? Che arte ci sarà mai? Che arte ci sarà mai? Che arte ci sarà mai? Che arte ci sarà mai? Che arte ci sarà mai? Che arte ci sarà mai? Che arte ci sarà mai? Che arte ci sarà mai?